Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di banche, ma anche di euro, perché si è conclusa l'inchiesta, diciamo così, lanciata dal Sole 24 Ore dall'economista Luigi Zingales sulle proposte sui pro e contro l'euro. Ma parleremo anche di banche per fare il bilancio di quello che sta succedendo sul fronte bancario, se ne è parlato anche ieri all'Ecofin, questo dopo le 18, mentre chiaramente il tema delle banche riguarda anche il tema già toccato la settimana scorsa di delle nostre due venete, parlo di Vicenza e Veneto Banca. In apertura dicevo invece temi di politica economica, visto che oggi si è tenuta a Roma, come ogni anno, all'Auditorium della Musica, l'Assemblea Annuale di Confindustria, la relazione del Presidente Vincenzo Boccia e anche l'intervento del Ministro allo Sviluppo Economico Calenda. Molti temi toccati da Boccia, che ha definito un paese impigliato in carenze croniche, 20 anni persi. La ripartenza, ha detto Boccia, è arrivata e sta arrivando a ritmo lento e aumenta ancora la differenza, il gap con gli altri paesi. Saremo l'unico grande paese in area euro nel 2017 con un valore dell'attività produttiva più basso di 10 anni fa, e andando avanti a un ritmo di crescita dell'1% torneremo al valore del 2008 nel 2023, quando, aggiungo io, praticamente ci saremmo già dimenticati come si stava nel 2008 e che cosa si faceva nel 2008. Boccia ha toccato anche i temi però legati alla politica, la tentazione proporzionalista, qui riferimento alla legge elettorale, sarebbe fatale per l'Italia, il rischio di una stagione di immobilismo con veti incrociati e maggioranze deboli. E da sempre, ha detto Boccia a nome di Confindustria, non abbiamo mai nascosto la nostra vocazione al maggioritario. E poi il tema della politiche pro imprese, pro lavoratori, la richiesta di azzerare il cuneo fiscale per 3 anni sull'assunzione dei giovani, nel senso azzerare il cuneo fiscale per chi è neoassunto. E poi ancora per la critica all'ipotesi di un aumento dell'IVA l'idea di un patto con il sindacato che permette di aumentare la produttività per poi aumentare i salari. Ascolteremo anche le reazioni dei sindacati presenti alla relazione del Presidente Confindustria. Ascolteremo anche, diciamo, l'intervento, a parte l'intervento del Ministro Calenda, che ha detto no al protezionismo, ma occorre essere molto duri nel difendersi da comportamenti scorretti o predatori. Scorretti vuol dire dumping, predatori vuol dire che vengono, diciamo, che usano l'Italia come sostanzialmente terreno per fare shopping senza un progetto industriale. È vero, Calenda ha parlato anche della legge della legge elettorale, e per quello che riguarda la proposta di Confindustria, ok, siete favorevoli a detassare la produttività. Ripeto, ascolteremo poi tutte le relazioni, le reazioni. I mercati finanziari: meno 0,50% Milano, meno 0,20% Parigi, meno 0,26% Francoforte, più 0,40% Londra, invariato il Dow Jones. Tra i titoli segnalo oggi una certa debolezza su Ferragamo, meno 5,16%, e poi il 2,20% lo perde Italgas, l'1,80% sia Terna che Exor, l'1,5% Hughes & Aportes, Snamret e Gas. Cito anche Generali, che perde l'1,40%, è nell'1,30%. Il fronte opposto: Banco BPM più 3,80, Unipol più 2,5, Biper più 1,30, UbiBanca più 1,1, Leonardo più 0,90%, euro su dollaro a quota 1,1180. 349-238-6666 come sempre per WhatsApp ed SMS. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parliamo dell'economia internazionale. Come sempre, anche la Cina si è vista abbassare oggi dall'agenzia di rating internazionale, una delle tre che danno i voti alla qualità dei debiti sovrani, dei debiti governativi. Si è vista abbassare, dicevo, il suo voto. Il rating infatti è sceso ad A1 da AA3. Quindi l'affidabilità, la prospettiva è stabile, pesano timori sul rallentamento della crescita anche a Pechino e sull'aumento del debito. E la Cina, come si dice in questi casi, non l'ha presa bene. Ha detto che il giudizio non è appropriato, è basato su un approccio prociclico dei giudizi. La risposta, un comunicato sulla prima bocciatura, devo dire che è la prima volta che viene abbassato il voto sul debito cinese da 25 anni. Replica il Ministero delle Finanze: i punti esaminati sovrastimano le difficoltà dell'economia cinese e sottostimano le capacità della Cina di rafforzare le riforme strutturali sul lato dell'offerta e di espandere la domanda nel suo complesso. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 al Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su RDS. Oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Per la prima volta da 28 anni la superpotenza cinese ha provato lo smacco di subire una parziale bocciatura nella pagella di una delle agenzie di rating. Moody's ha infatti declassato il rating sovrano da AA3 ad A1, facendo perdere quindi la doppia A a Pechino, pur mantenendo la valutazione in una relativa zona di eccellenza. Gli analisti dell'agenzia americana segnalano una preoccupazione per la crescita del debito verso il 40% del PIL e per un rallentamento superiore alle attese di tutta l'economia. Va detto che appunto l'economia cinese finora è cresciuta a ritmi del 6-7% annuo, ma ora si teme che il vasto programma di riforme avrà inizialmente un effetto di rallentamento e non di crescita. Pechino ha affidato la sua risposta a una gelida nota del Ministero dell'Economia, dove si dice che Moody's sottovaluta la capacità di crescita del paese e sovrastima invece l'impatto del debito. Ora si vedrà se questo orientamento sarà seguito anche dalle altre agenzie di rating. Va detto anche che i titoli di debito cinese sono per lo più comprati dalle banche sempre cinesi e il mercato dei bond del dragone del tutto irrilevante sui mercati internazionali, infatti gli acquirenti dall'estero sono meno del 16%. Forse anche per questo che la borsa di Shanghai ha ceduto sì lo 0,6%, ma che il cambio dello yuan ha tenuto e il mercato dei bond non ha subito alcun contraccolpo. L'idea che la Cina possa diventare un paese da default non è proprio nella natura delle cose, anche se il declassamento di Moody's però segnala che c'è ancora qualcosa che non va nel considerare la Cina una vera economia di mercato, perché i tassi non sono ancora quelli che sarebbero naturali in altri paesi dove il mercato esiste davvero. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Altre notizie sempre di carattere internazionale. Dunque, oggi la Banca Centrale Europea ha rivisto al rialzo il rischio che sui mercati tornino i timori di sulla sostenibilità dei debiti pubblici dell'area euro. Però Draghi ha aggiunto: non c'è nessun motivo per deviare dalle linee guida che ci siamo dati, e quindi le linee guida che prevedono di abbassare i tassi di interesse solo una volta concluso il quantitative easing e non il contrario. E poi Draghi ha aggiunto: nell'area euro non c'è una diffusa emergenza di squilibri e quindi non ci sono segnali diffusi di bolle creditizie. Ha poi posto l'attenzione anche la vigilanza sui fondi pensionistici e assicurativi, alcuni dei quali alla ricerca dei rendimenti hanno spostato i loro investimenti verso asset con rating più bassi, cioè con affidabilità più bassa e rischio più alto. Alitalia, dopo che di nuovo Lufthansa ieri aveva escluso alcun interesse per Alitalia, oggi di nuovo la missione legata alle Ferrovie dello Stato ha escluso a margine dell'assemblea di Confindustria un qualunque intervento dentro Alitalia, e ha detto: insomma, escludiamo assolutamente un intervento in Alitalia. Ha detto Mazzoncini: abbiamo nel nostro piano industriale per i prossimi 10 anni 23 miliardi solo di autofinanziamento per i nostri progetti, e se come Ferrovie dello Stato dovessimo destinare una parte significativa di questi finanziamenti dall'Italia, non saremmo in grado di portare avanti i progetti di Ferrovie dello Stato a partire dal trasporto pubblico locale e quindi treni regionali, servizio su gomma, ANAS e tutto il resto che è dentro il piano FS. Sempre dall'Italia, nuova acquisizione nel mondo del caffè per il gruppo Lavazza, perché il gruppo torinese continua a crescere in Nord America, ha comprato l'80% del capitale di Kicking Horse Coffee, è il leader canadese nel caffè organico e fair trade, quindi sostenibile, lo sviluppo sostenibile. È un'operazione che vale 215 milioni di dollari canadesi. Per quello che riguarda, visto che parlavamo di aziende italiane all'estero, oggi per quello che riguarda l'export, in questo caso della moda italiana, se ne è parlato di nuovo nella seconda giornata di lavori per il Luxury Summit del Sole 24 Ore a Milano, il summit dedicato al mondo del lusso, e come ha ricordato il presidente della Camera della Moda, Carlo Capasa, sta andando ancora bene l'export nei primi mesi dell'anno per il settore moda e c'è una grossa fiducia per come poi si andrà a chiudere l'anno. Per ora siamo un più 1,4% come previsione dell'andamento per il primo semestre. Una crescita che si sta anche realizzando, quella del settore moda italiano verso l'estero, grazie al digitale, in particolar modo al mercato online. Lo ha spiegato il presidente della Camera Italiana Buyer Moda, Mario Dell'Oglio, al microfono della nostra Anna Marino. Sicuramente il digitale ha costituito per tutti noi un momento importante di crescita. Noi abbiamo servito il mercato più esigente del mondo per decenni e quindi abbiamo un expertise in questo senso straordinario che abbiamo riversato sull'online. L'online può anche, diciamo, andare oltre il protezionismo, la nuova tendenza? L'online assolutamente va oltre, sebbene il protezionismo blocca nel frattempo delle facilitazioni che avevamo acquisito con delle legislazioni, per esempio quella americana che non tassava gli acquisti entro una cifra che poteva essere $400 o $500, e chiaramente toglierla dà un freno importante all'acquisto in Italia. Quindi in questo senso il protezionismo può essere un elemento di vincolo, un elemento di limitazione, perché comunque l'online è una finestra schiacciante sulla convenienza. Perché ovviamente uno dei fattori più importanti dell'acquisto, il driver più importante dell'acquisto online è comunque l'elemento della convenienza. Quanto l'online aumenta il volume, diciamo, di scambi nel settore luxury? Ma nel caso di alcune realtà può essere nel giro di pochi anni un elemento di decuplicazione del fatturato. Parliamo anche di noi, ossia del mondo radiofonico, perché sempre all'interno di questo ragionamento che stiamo facendo sul mercato e sul mondo digitale, ieri si è tenuta la terza edizione a Milano di Radio Compass, è l'evento che racconta come sta andando il mercato radiofonico, organizzato da Mindshare e Assoradio, con la collaborazione delle varie concessionarie radiofoniche. Si è tenuto appunto nella sede Sole 24 Ore. Sentiamo il numero uno di Mindshare, Roberto Minaghi, sulle prospettive del settore radiofonico quanto ascoltatori, investimenti pubblicitari, al microfono della nostra Alessandra Scaglioni. Abbiamo parlato di dati positivi perché la radio è un mezzo in crescita dal punto di vista editoriale, che ha recuperato negli ultimi 4 anni circa 1 milione di ascoltatori sia nel giorno medio che nei 7 giorni e che ha allungato le permanenze d'ascolto. Dal punto di vista pubblicitario addirittura i risultati sono anche più brillanti, perché è sostanzialmente il mezzo che è cresciuto di più nell'ultimo quadriennio, più della televisione, più di tutti gli altri mezzi classici, meno del digitale, di internet, ma se contiamo che nel digitale ci sono i cosiddetti over the top, quindi Google e Facebook, che si prendono la maggior parte della crescita, potremmo dire che la radio sta crescendo anche più del web editoriale. Nell'edizione di quest'anno c'è stata un'analisi anche più approfondita su due filoni. Uno è quello della, diciamo, relazione che si crea tra la radio e l'ascoltatore, e lo avete fatto anche con l'aiuto delle neuroscienze. Sì, il messaggio sonoro, prima che quello visuale, è quello che arriva nella sfera emotiva e quindi quello che in qualche modo lascia una traccia più profonda. E due, lavorando sui big data, siamo andati a vedere come il pubblico della radio agisce, come si muove sul web, l'abbiamo seguito per tramite dei cookie e quindi ne abbiamo rilevato, ripeto, quelli che sono i comportamenti e non quelle che sono le dichiarazioni di comportamento. In entrambi i casi abbiamo tirato fuori delle cose assolutamente interessanti, sia nella definizione della tipologia di pubblico della radio, che è un pubblico assolutamente attivo, assolutamente proattivo, assolutamente centrale e quindi molto molto rilevante dal punto di vista commerciale, sia della funzione della radio nella pianificazione, dove la radio è un integratore degli altri mezzi, non solo nel senso che allunga le frequenze e magari lo fa a basso costo, ma nel senso che porta una profondità di messaggio che è peculiarmente sua e non appartiene alle altre componenti del mix. Assemblea annuale di Confindustria, primo tema di approfondimento di questa puntata. Partiamo dall'analisi abbastanza impietosa che ha fatto il presidente Confindustria Boccia di quello che è successo negli ultimi 20 anni in questo paese. E quindi non è tanto il 2008, se vogliamo, ma è diciamo da fine anni 90 in poi. 20 anni perduti, restiamo impigliati nelle nostre croniche carenze strutturali. L'Italia è cresciuta di più quando più forte è stata la coesione sociale, che non significa annullare le differenze, ma dare a ciascuno la fiducia e gli strumenti perché possano essere superate. Superate nel segno di una visione comune, e con un progetto che la realizzi passando dagli interessi di ciascuno alle esigenze del Paese. Abbiamo ancora 4 milioni e mezzo di poveri e quasi 8 milioni di persone cui manca il lavoro, in tutto o in parte. Abbiamo un debito pubblico di quasi 2.300 miliardi di euro che continua ad aumentare di anno in anno. Siamo tornati a crescere, è vero, ma il divario con gli altri paesi europei non è diminuito. Al contrario, si sta allargando, come accadeva prima della crisi. Dal 2000 a oggi il PIL italiano è rimasto invariato, contro il 27% della Spagna, il 21% della Germania, il 20% della Francia. Il reddito per abitante e ai livelli del 1998, 20 anni perduti. Dal 2015, grazie al basso prezzo del petrolio e alla politica iperespansiva della Banca Centrale Europea, si sono create condizioni molto favorevoli. Avremmo dovuto premere l'acceleratore e recuperare velocemente il terreno perso con la doppia recessione, ma ciò non è avvenuto. E la lenta risalita non va a beneficio di tutti. Restiamo impigliati nelle nostre croniche carenze strutturali e il tessuto sociale e produttivo rimane fragile. E qui veniamo alle proposte. Le proposte sulla produttività, da un lato avanzate dal presidente Confindustria e in particolar modo poi quella sul cuneo fiscale per i neoassunti giovani. Partiamo dalla produttività. E qui si rivolgeva prevalentemente ai sindacati, perché ha parlato specificamente di relazioni industriali. Ha detto Boccia: noi vogliamo aumentare le retribuzioni con l'aumento della produttività e questo è possibile solo con una moderna concezione delle relazioni industriali. L'innalzamento della produttività deve essere il nostro faro. Come dice Paul Krugman, la produttività non è tutto, ma nel lungo periodo è quasi tutto. È l'aumento della produttività che dalla rivoluzione industriale in poi ha consentito di moltiplicare per 20 volte il reddito per abitante. Da quasi 20 anni in Italia, come abbiamo evidenziato con la forza dei numeri nella scorsa assemblea, la produttività è ferma nell'intero sistema economico e cresce della metà o meno rispetto agli altri paesi nel settore manifatturiero. Noi vogliamo e dobbiamo aumentare le retribuzioni con l'aumento della produttività. E questo è possibile solo con una moderna concezione delle relazioni industriali. Serve favorire il coinvolgimento delle persone. La strada maestra è quella dei premi di produttività, da detassare in modo strutturale. Questo è l'invito che è arrivato, diciamo, anche ai sindacati. Vorrei far ascoltare un altro passaggio prima di ascoltare le reazioni dei sindacati presenti oggi all'Assemblea Annuale di Confindustria, la proposta che è arrivata sul cuneo, altra notizia forte di questa giornata: azzerare il cuneo fiscale sull'assunzione dei giovani per i primi 3 anni, sapendo fin da ora che dopo dovremmo comunque ridurlo per tutti. Per costruire una società aperta e inclusiva dobbiamo cominciare dai giovani, dalle loro energie, dalla loro voglia di futuro. La poca occupazione giovanile è il nostro valore sprecato. Dobbiamo avviare una grande operazione per includere i giovani nel mondo del lavoro, nel settore privato, certo, ma anche in quello pubblico, dove una salutare iniezione di energie fresche e professionali non può che innalzare il grado complessivo di efficienza del sistema Italia, a beneficio delle imprese e dei cittadini. Combattere con una misura forte, diretta, percepibile la disoccupazione dei giovani vuol dire restituire il futuro ad un'intera generazione. Vuol dire ancorare la società italiana ai valori della democrazia e dello sviluppo, valori non negoziabili e non sostituibili. Dobbiamo finanziare lo sviluppo e non la disoccupazione. La nostra proposta è molto semplice: azzerare il cuneo fiscale e contributivo sull'assunzione dei giovani per i primi 3 anni, sapendo fin d'ora che dopo dovremmo ridurlo per tutti. Ma abbiamo il dovere morale, civile e politico di agire prima per le nuove generazioni. Le reazioni su questa prima parte, dicevamo, e allora, da un lato il ministro Calenda sulla proposta arrivata da Confindustria a detassare e azzerare di fatto il cuneo fiscale, la differenza tra quanto costa un lavoratore e quanto percepisce in busta paga per i neoassunti per i primi 3 anni, ma come obiettivo ridurre il cuneo fiscale per tutti e quindi sostanzialmente anche andare verso una detassazione della produttività. Con il ministro Poletti stiamo lavorando ad un piano lavoro e welfare 4.0 da presentare alla prossima cabina di regia. E il contributo dei sindacati sarà essenziale in questo ambito, come lo è stato peraltro sul piano degli incentivi. Quello che è certo è che il recepimento di strumenti di welfare aziendale e della formazione continua in alcuni contratti di categoria va sicuramente nella direzione giusta e deve essere allargato. Ma mentre ci prepariamo per affrontare i nuovi paradigmi del lavoro, non possiamo non accelerare sull'implementazione di quelli che avrebbero già aiutato il Paese a migliorare la produttività. Concordo con Enzo sulle finalità di un patto per la fabbrica che avvicini la contrattazione all'impresa e siamo pronti a fare la nostra parte valutando un'ulteriore detassazione sui premi e sul salario di produttività. Questa è la strada per avere retribuzioni più alte e aumentare la competitività. Ancora una volta non mi pare che esistano scorciatoie. E diciamo invece le reazioni dei sindacati su questo passaggio, oltre che su tutto il tema e sugli altri temi toccati da Boccia. Allora, la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, ha detto: abbiamo sempre detto e continuiamo a pensare che la soluzione non sia un incentivo a pioggia, ma che sia necessario fare scelte mirate. E così appunto sull'azzeramento del cuneo fiscale per 3 anni sull'assunzione dei giovani. Ma io credo che non bisogna esagerare con moltiplicare i patti. Il patto per la fabbrica era stato proposto quasi un anno fa, la cosa che sottolineiamo è che poi non si è tradotto in una relazione effettiva e quindi siamo per tornare a discutere concretamente di come si fa la contrattazione, di come si fa la formazione, di come si affrontano i processi di innovazione. Abbiamo colto l'attenzione che c'è rispetto soprattutto ai giovani laureati, mi pare che non ci sia altrettanta attenzione sul fatto che c'è un tema che si chiama qualità del lavoro, finché ai giovani gli si offre precarietà e decontribuzione mi pare che non ci si stia occupando di loro. Mi pare che il Presidente di Confindustria non abbia affatto aperto su alzare le retribuzioni, il Presidente di Confindustria continua a dire che l'unica strada è quella salari e produttività, ingenerando un equivoco che la produttività sia solo un tema di fattori di lavoro, non sia invece un fattore dimensionale dell'impresa, non sia un fattore di funzionamento del sistema paese, quindi scaricando su una platea ridotta di lavoratori che sono quelli del secondo livello l'idea che possano essere loro a risolvere i problemi di produttività, e questo non è vero. E su questo anche è intervenuto chiaramente anche il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, ha detto di condividere molte cose, ma invita tutti a tradurre i ragionamenti tecnici in un accordo politico e quindi a fare presto. Barbagallo, segretario generale della UIL, sui giovani la valutazione è critica, dice la proposta è legata alla vecchia logica dei bonus. Preferisco invece misure strutturali. Ascoltiamo Barbagallo come già la Camusso al microfono del nostro Andrea Viali. Abbiamo notato che c'è una volontà di recuperare i ritardi che abbiamo per fare una coesione sociale ripartendo dai temi del lavoro, e non vorrei disturbare questa impostazione che mi è sembrata anche condivisa da Calenda, e siamo perché si acceleri per dare risposta al Paese, in particolare ai nostri giovani. Dobbiamo discutere di una cosa, intanto diciamo i bonus hanno dimostrato che non servono, perché alla fine dei bonus c'è il ritorno indietro. Magari avere un abbattimento del cuneo fiscale sulle imprese e sui lavoratori più strutturale potrebbe dare risposte, ma ne discuteremo nel merito. Anche rispetto alla detassazione dei premi di produzione, non c'è problema, l'abbiamo sempre rivendicato noi in particolare come UIL. L'unica cosa che c'è da tenere attenzione è che il 20% delle imprese che vanno bene potrebbero essere le sole a usufruire di questo, diciamo, interessante ulteriore, e quindi starebbero ancora meglio. Il problema nostro è vedere cosa facciamo per quel 60% che è nella zona grigia che hanno detto, e su questo siamo interessati a discutere. Adesso andiamo sul meteo e poi gli altri temi toccati, a partire anche dai temi di politica economica e della legge elettorale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Minuti, dicevamo gli altri temi della relazione annuale del Presidente di Confindustria e degli interventi anche del Ministro Calenda, oltre che di sindacati e altre dichiarazioni a margine. Andiamo sul tema invece dell'IVA, dove dopo che la Commissione Europea ha ricordato in questi giorni, ha consigliato all'Italia di spostare la tassazione dall'IRPEF, IRAP, dai fattori produttivi ai consumi, IVA e anche tassa sulla prima casa. Anche Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, ritiene, come devo dire già detto dal Ministro Padoan e anche dal Ministro Calenda, che a continuare a cambiare la normativa con effetto anche retroattivo minerebbe la credibilità del Paese, e le più recenti iniziative legislative in materia di IVA sembrano poco efficaci negli interessi dell'erario. Le più recenti iniziative legislative in materia di IVA disegnano un sistema di adempimenti poco efficace nella tutela degli interessi dell'erario e al contempo più gravoso e complesso per le imprese. Quel che preoccupa è la loro applicazione retroattiva, una deriva che va assolutamente evitata perché mina la credibilità del Paese. E poi il passaggio politicamente più forte nella relazione di Boccia, quello politicamente perché è relativo alla politica, alla legge elettorale. Devo dire che Boccia, sin dall'inizio del suo mandato, ha rivendicato per la Confindustria un ruolo politico, non nel senso di partito politico, ma di politica come interesse anche di chi rappresenta il mondo produttivo. E ha detto Boccia: la sfida del paese è continuare sulla strada delle riforme. Attenzione, la tentazione proporzionalista sarebbe fatale per l'Italia, con un rischio di una lunga stagione di immobilismo, quindi con poca governabilità e scarsa stabilità. Assecondare la tentazione proporzionalista che oggi vediamo riemergere in molte proposte per la legge elettorale potrebbe rivelarsi fatale per l'Italia. Comincerebbe una nuova stagione di immobilismo in un quadro neocorporativo e neoconsociativo. Il ritardo accumulato dal nostro Paese su molti fronti è il frutto malato di questo vizio antico, così come l'insana abitudine agli scambi con la politica. Di non tanto di riforma elettorale, ma di le elezioni e anche di riforme da fare prima delle elezioni, ha parlato comunque nel suo intervento anche il ministro Calenda. Ha detto: occorre prima ricapitalizzare le banche in difficoltà e andare avanti con le riforme, poi la legge elettorale al voto nei tempi giusti. Dopo il referendum infrango il secondo tabù, che è quello di parlare della data delle elezioni. Vabbè, che ce la mandi buona. Come la penso sulle elezioni è noto. Bisogna arrivarci nei tempi giusti, evitando l'esercizio provvisorio di bilancio dopo aver completato la ricapitalizzazione delle banche in difficoltà, e con una legge elettorale che dia, non diciamo la certezza, ma la ragionevole probabilità della formazione di un governo, riducendo la frammentazione del sistema politico. E fino all'ultimo giorno utile dobbiamo poi continuare a lavorare con determinazione sull'agenda delle riforme, mantenendo una collaborazione forte, trasparente e leale tra partiti di maggioranza e esecutivo. Poi parleremo, ripeto, anche di banche. Dopo il traffico, l'ultima serie di interventi brevi, le reazioni di chi ha assistito alla relazione del presidente Confindustria Boccia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Le reazioni, dicevamo, però io vorrei far ascoltare anche un passaggio del ministro Calenda sul famoso TAP, ossia il gasdotto che deve arrivare in Puglia, i famosi ulivi, quella vicenda allucinante che siamo occupati per 220 ulivi da spostare e rimettere lì, con Emiliano che cavalcava la protesta, il tutto in una logica anti sistema industriale italiano, perché e soprattutto fregandosene bellamente gli accordi internazionali firmati. Ripeto, 220 ulivi spostati e che verranno lì rimessi. Insomma, Calenda è voluto tornare sul tema e sulle contestazioni che stanno interessando la realizzazione del gasdotto TAP in Puglia. Quello che abbiamo visto accadere è andato oltre ogni previsione. La sindrome NIMBY, cavalcata da quasi tutte le autorità locali, è il massimo della confusione amministrativa, con il TAR del Lazio che ha sospeso per alcuni giorni le espianti di ulivi quando l'espianto era già terminato, pur ammettendo che le autorizzazioni rilasciate erano perfettamente valide. Abbiamo visto muri millenari distrutti da chi pretendeva di essere paladino e custode della difesa del territorio, e molotov lanciate contro i vivai dove gli ulivi erano custoditi per essere rimpiantati da parte di chi protestava contro l'impianto di quegli stessi ulivi in nome dell'ambiente. È una situazione kafkiana. Qualcuno mi deve spiegare cosa c'entra la difesa del territorio con tutto questo. Ovviamente ci sono state anche proteste pacifiche e vanno riconosciute, a mio avviso, e lo dico con grande franchezza, incomprensibili nel merito, ma del tutto legittime nello svolgimento, e non di rado i violenti, in larga parte venuti da fuori, sono stati isolati proprio dai cittadini pugliesi, a cui dobbiamo un ringraziamento per questo. Sono d'accordo su tutto quello che ha detto Calenda, ma non c'era bisogno di, forse, che lo dicessi, vista la copertura che abbiamo dato alla vicenda TAP del tutto strumentale per fini politici. Comunque le reazioni, il presidente dell'ABI Patuelli al microfono, l'ABI vuol dire le banche italiane, al microfono del nostro Andrea Viali. C'è un grande parallelismo fra l'associazione bancaria e la Confindustria del presidente Boccia, lo si vede innanzitutto sulla ricerca di politiche di fattori, non politiche corporative di settori. Le politiche di fattori sono quelle che sostengono davvero lo sviluppo, correggono quelle che sono le distorsioni tradizionali dell'Italia e la rendono più competitiva sui mercati internazionali. Se riusciamo a realizzare questo indirizzo, riusciremo a rafforzare i nostri indici di produttività e di competitività sui mercati. Io spero che la ricapitalizzazione delle banche, che devono subire l'intervento dello Stato, avvenga ben prima che si ponga il problema della conclusione della legislatura, e quindi molto più rapidi di quelli che riguardano la fase di prescioglimento delle Camere. Di questo parleremo, perché il tema, insomma, dell'operazione di ricapitalizzazione delle due banche venete, dopo quello che ha chiesto l'Europa, 1 miliardo dei privati, è un tema ancora tutto da risolvere. L'ultima reazione, commento alla relazione del presidente di Confindustria, è quella di Emma Marcegaglia, presidente dell'ENI, sempre a microfono del nostro Andrea Viali. Mi è piaciuta moltissimo la reazione che ha dato uno scenario internazionale di quello che sta succedendo, il rischio che l'Italia non colga tutte le opportunità di una ripresa mondiale che è in atto. Mi è piaciuto molto questo riferimento ai giovani, il fatto che dobbiamo tutti impegnarci per i giovani, anche la proposta di Confindustria di decontribuire il salario dei giovani, diciamo, nuovi assunti. Mi è piaciuto anche la presa di responsabilità delle imprese, cioè il dire anche noi dobbiamo fare molte cose, ci sono ancora troppo poche imprese che investono in laurea, in tecnologia, in esportazione, quindi secondo me è una relazione molto alta che segna una strada che io condivido totalmente. Adesso andiamo praticamente sul GR, però vorrei anticipare, sul GR24 vorrei anticipare intanto la chiusura di borsa, meno 0,21%, Milano, meno 0,13% Parigi, meno 0,13% anche Francoforte, più 0,40 Londra, più 0,12 il Dow Jones, euro a quota 1,11, titoli Banco BPM bene oggi, più 4%, Unipol più 2,60, Ubibanca più 1,70, Leonardo più 1,5 come Biper Banca, e invece più che debole Salvatore Ferragamo meno 5,20, cali più contenuti per Italgas meno 1,90 e Hughes Santa Porte meno 1,70 come le generali, l'1,5% lo perde Exor, ma anche Terna e Snam. Rete Gas, dopo il GR24 il commento ai titoli e il bilancio e dell'iniziativa lanciata dall'economista Luigi Zingales, dibattito su pro o contro l'euro, ma anche il tema dei salvataggi bancari e di quanto ci ha richiesto l'Europa. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Conti, la borsa, dunque i titoli e l'andamento dei titoli che avevamo già dato prima del GR24. Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Partiamo da Ferragamo come la peggiore oggi, -5,20%, unita invece alla migliore, sempre tra i titoli di maggiore capitalizzazione, Banco BPM, +4%. Dunque, Salvatore Ferragamo, così come buona parte del settore della moda, oggi è stata in forte difficoltà a Piazza Affari. Ferragamo, come dicevi tu, ha perso il 5,2%, è stata la peggiore del FTSE MIB, ma male anche Yux Net-a-Porter, -1,7%, Moncler ha ceduto lo 0,6%. Cosa pesa su Ferragamo? Sicuramente il downgrade alla Cina. Ricordiamo che gli acquisti cinesi di prodotti Ferragamo in tutto il mondo pesano per il 30% della maison di moda, ma c'è anche stato un convegno per analisti oggi a Parigi in cui il management del gruppo, anche se non è ancora chiaro poi i termini di quanto è stato detto, ha sostanzialmente mostrato prudenza sulla redditività di Ferragamo per il 2017, quindi due fattori combinati che hanno penalizzato oggi il titolo. Per quanto riguarda invece Banco BPM, che già ieri era andato molto bene, oggi un ottimo rialzo, la migliore del FTSE MIB, +4%, c'è forte attesa per la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza pari a 750 milioni di euro. Secondo le stime di mercato la banca dovrebbe incassare circa 250 o anche 300 milioni di euro, leggermente sopra quanto si stimava. Andiamo, sì, della notizia riguardante la Cina, abbiamo detto in apertura, chiaramente c'è un riflesso anche sui titoli legati al lusso, che lì molto sono esposti, infatti oltre a Ferragamo cito anche Yux Net-a-Porter che ha perso l'1,70% e Moncler -0,60%, Italgas -1,90%, bene invece Unipol +2,60%, Ubibanca +1,77%, gli NPL, come tu ricordavi, spingono la cessione, la qualità della cessione delle sofferenze bancarie spinge il titolo Banco BPM. Oggi debolezza sulle utilities. Fiat, c'era molta attesa dopo la conferma ieri che gli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha citato in tribunale Fiat Chrysler sulla vicenda delle emissioni diesel. Ieri poi il titolo aveva anche ripiegato in maniera abbastanza decisa a Wall Street, invece oggi poi alla fine a Piazza Affari, per usare un eufemismo, la similitudine, la montagna porto di un topolino, perché Fiat ha chiuso a -0,6%, sì. Qui l'opinione del mercato è che sostanzialmente il caso FCA dovrebbe essere molto diverso da quello di Volkswagen, e quindi lo scenario peggiore per adesso non è considerato il più probabile dal mercato. Quindi insomma FCA dovrebbe cavarsela abbastanza bene, non con la maxi multa che poi è stata una transazione portata poi avanti da Volkswagen negli Stati Uniti. Allora, i migliori e i peggiori invece della seduta, come sempre, Ecosantec +29,90, Sintesi +19,80, Notorious Picture +17,80%, fronte opposto Ferragamo è il peggiore in assoluto. E poi Fintech Energia Group -3,90%, Italia Independent -3,40%, Deutsche Börse -3,30%. Grazie intanto per oggi a Ciò Condine. Ma noi restiamo sul tema invece delle banche, visto che in senso positivo oggi Banco BPM è stato premiato per una cessione migliore delle attese di 750 milioni di sofferenze bancarie vendute sostanzialmente a un terzo del valore, che è una quota buona perché i fondi cosiddetti avvoltoio spingono per rilevare queste sofferenze al 15%, massimo 20% del valore, quindi cederla al 33% è già buono, considerato che molte banche le hanno ancora in bilancio al 40% del loro valore. Ma qui appunto da questo tema, e questo tema ci traghetta direttamente invece alla vicenda delle banche popolari venete, ossia Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Abbiamo ascoltato prima il riferimento del ministro Calenda nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria, dire prima ricapitalizziamo le banche in difficoltà, andiamo avanti con le riforme, facciamo la legge elettorale, poi andiamo al voto nei tempi giusti, ma con una legge elettorale che riduca il più possibile la il rischio di una frammentazione del sistema politico. Quindi anche per il ministro Calenda è prioritaria la chiusura di questa vicenda, che si è riaperta in realtà quando giovedì scorso fonti del Ministero Economia e Finanze italiano e di Bruxelles hanno confermato al Sole 24 Ore che la Commissione Europea ha chiesto 1 miliardo in più ai privati per concedere via libera al salvataggio, all'ingresso dello Stato dentro Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Tra l'altro, a questo punto il contributo dello Stato scenderebbe da 4,7 a 3,7 miliardi, e per un totale che invece resta uguale di 6 miliardi e 400 milioni da mettere nelle due banche, ma il contributo dei privati attualmente pari a 940 milioni. Come anticipo versato dal Fondo Atlante e più i 700 milioni derivanti dalla conversione di alcune obbligazioni, aumenterebbe di un altro miliardo, e su questo si è creata oggettivamente una situazione di stallo. E vorrei parlare di questo, oltre che diciamo dell'iniziativa che aveva lanciato sul dibattito serio, non ideologico, non diciamo politico sull'euro. Dicevo, vorrei parlarne con Luigi Zingales, che insegna finanza all'Università di Chicago, alla Boots School of Business, ed è editorialista anche del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera. Partiamo dai salvataggi bancari, che lei il 5 marzo scorso, se ben ricordo, quando ancora non c'era notizia chiaramente di questa richiesta ulteriore dell'Unione Europea, scrisse un commento su Sole 24 Ore dicendo i salvataggi e la politica bancaria che non c'è. Che come lo riscriverebbe dopo quello che abbiamo appreso da Bruxelles giovedì? Beh, in maniera ancora più drammatica. Io penso che noi siamo in ritardo di più di un anno. È praticamente da il novembre del 2015 che vado riscrivendo sul Sole 24 Ore lo stesso articolo. Dobbiamo intervenire rapidamente nelle banche. Dobbiamo intervenire rapidamente perché ne va dell'intero sistema economico. Oggi, con il Monte Paschi in queste situazioni, con le banche denne in queste situazioni, molte regioni non hanno credito. Io ho guardato le statistiche sull'aumento del credito in Veneto verso, ad esempio, Piemonte. In Veneto è negativo e molto più basso del Piemonte in tutte le categorie. Quindi l'economia non riceve prestiti, senza prestiti l'economia va in asfissia. Quindi non è una questione di salvare i banchieri. Io sono il primo a dire che ci vuole una commissione seria, non quella che stanno facendo al Parlamento l'ultimo giorno che non farà nulla, ma una commissione seria per attribuire le responsabilità. Però questo non vuol dire che per punire i banchieri si debba uccidere l'economia italiana. E su questo noi abbiamo raccontato come vi sia stata da un lato la distruzione di quasi 15 miliardi di valore tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza, in un territorio che va da Vicenza a Montebelluna, 15 miliardi di risparmi, quindi c'è già una componente di minori consumi. Se poi, come lei ricordava e ce lo ricordava anche Fabrizio Viola come Popolare di Vicenza, tutto si blocca perché non abbiamo ancora sciolto il nodo di come gestire questi NPL e come ricapitalizzare queste banche, tu arrivi a uno stallo anche in quella che è la parte produttiva, no? Cioè non solo i consumi e i risparmi bruciati dalla gestione da un lato di Zonin e dall'altro della gestione Veneto Banca, ma anche blocchi l'andamento dell'economia produttiva. L'Europa, professor Zingales, è troppo dura con noi dopo, nel senso, noi ci siamo mossi in ritardo, non abbiamo utilizzato la finestra che ha usato la Germania, 174 miliardi, l'Olanda 70 miliardi, anzi vi le do i dati precisi, 35 miliardi scusatemi per ricapitalizzare ING e ABN AMRO, la Spagna che ha ricorso al Fondo Europeo per 100 miliardi di euro, l'Irlanda ha messo 64 miliardi a sostegno delle banche sue e ha creato anche una bad bank per tutte le sofferenze bancarie, tutti i non performing loans. Noi ci siamo mossi tardi, sotto bail-in, lo ricordiamo tutti, e quindi Abbiamo una responsabilità, però non è che adesso l'Europa sia troppo dura con noi dopo quello che ha fatto passare prima del bail-in in altri paesi? Beh, io direi che ci sono due aspetti. Il primo è se uno della San Benedettese non riesce a giocare in Serie A, e noi purtroppo le nostre istituzioni sono da San Benedettese, non sono da Serie A, e quindi competere ad armi pari e interagire con il resto dell'Europa, con delle istituzioni, con una classe politica, una classe dirigente non all'altezza, finiamo massacrati. E questo è quello che sta succedendo. Secondo, purtroppo la Banca Centrale Europea, particolarmente l'Istituto di Vigilanza, si sta facendo la reputazione alle nostre spalle. Nel senso che devono creare la credibilità. Com'è che si crea la credibilità? Essendo estremamente duri in una situazione. In più, noi in qualche modo ce lo meritiamo anche, perché voglio dire, quello che è successo ad esempio alla Banca Popolare di Vicenza grida scandalo. Quindi se le istituzioni europee, diciamo, sono molto diffidenti, le si può anche capire che siano diffidenti, però il problema è che a loro politicamente non costa niente essere super duri, perché tanto sono una francese e una tedesca che si stanno facendo reputazione alle spalle dell'Italia che sta morendo. Allora, dopo il traffico torniamo su questo. 24 comunque i miliardi andati in fumo, come ha calcolato alcuni giorni fa Fabio Pavesi sul Sole 24 Ore. 24 miliardi le perdite di 380.000 risparmiatori che avevano investito nelle sette banche fallite: Monte dei Paschi, Popolo di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Cari Ferrara, Cari Chieti, Banca Marche, e poi i 175.000 azionisti di Monte dei Paschi che hanno perso 12 miliardi di euro. 120.000 gli azionisti a Popolare di Vicenza, persi 6 miliardi 200 milioni di euro, 87.000 i soci di Veneto Banca, persi 5 miliardi di euro, e un altro miliardo di perdite diviso tra le quattro banche, le famose quattro banche prima citate. Dopo il traffico torniamo per chiudere su questo. Molti mi stanno scrivendo anche sulla rete di protezione e le indagini al rallentatore. L'abbiamo raccontato molte volte questa vicenda, di come vi fossero dei vasi comunicanti tra ex funzionari e ispettori della Banca d'Italia e la Popolare di Vicenza, di come vi fossero vasi comunicanti anche tra la Procura di Vicenza e la Popolare di Vicenza, di come vi fossero anche vasi comunicanti tra ex capi del nucleo della Polizia Tributaria di Vicenza, Guardia di Finanza e la Popolare di Vicenza stessa, cioè andavano sempre a lavorare lì a un certo momento, no? O loro o in alcuni casi anche i figli. Quindi è chiaro che in alcuni casi si è voluto non vedere quello che diceva Zingales, così rispondo agli ascoltatori. È vero, cioè il bubbone Vicenza scoppia quando arrivano gli ispettori della Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Dopo il traffico, l'ultimo commento su questo, e poi invece andiamo anche a riassumere che cosa è emerso dal dibattito, diciamo, euro, no euro, lanciato proprio da Luigi Zingales su Sole 24 Ore. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, professor Zingales, oggi tra l'altro il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha detto: ma chi lo ha detto che ci vuole un miliardo, basta perdere soldi privati, riferito appunto alle banche venete, ha detto bisogna fare comunque presto. Secondo lei quale dovrebbe essere la mossa a questo punto del governo italiano, visto che lei diceva accusava la nostra classe di dirigenti di essere stata quantomeno, diciamo, non all'altezza? Guardi, io ti dico, da più di un anno che dico che dobbiamo avere una versione italiana di TARP, cioè di quello che hanno fatto gli Stati Uniti durante la crisi, ovvero immissione di equity in maniera protetta, cioè di equity con una certa seniority nelle banche italiane, a tutte le banche, con la possibilità di ricomprare da parte delle banche queste azioni in maniera tale da ricapitalizzare il sistema subito e in maniera massiccia. Se questo, se l'Europa non ce lo fa fare da solo, ce lo fa fare attraverso il fondo ISM, che lo facciamo col fondo ISM. L'importante è che lo facciamo e lo facciamo subito, perché i mesi che sono passati, cioè Monte Paschi è in questa situazione un anno fa, Banca Popolare di Vicenza è in questa situazione un anno fa. In questo anno, ma lei pensa che abbiano fatto dei prestiti all'economia? Non possiamo avere un altro anno così, non possiamo avere altri due mesi così. Bisogna un intervento rapido e decisivo. E se l'Europa si mette da mezzo, che ci faccia la procedura di infrazione. Intanto sì, lo facciamo, certo. E poi dopo discutiamo. Sì, guardi, professor Zingale, nemmeno io capisco tutta questa questa prudenza italiana, nel senso che un conto è quando l'Europa ti chiede una manovra correttiva da 3,6 miliardi perché sul deficit e quant'altro, ma su una cosa del genere... facciamo ripartire l'economia di territori che sono territori ad altissima densità, così rispondo anche ad alcuni ascoltatori, di piccole e medie imprese, il nord-est nell'asse che ricordavamo, ma anche le Marche, ma anche Ferrara, ma tutta la parte senese e via così, l'Aretino con la Popolare Etruria. Professore, vi torneremo poi perché il dibattito immagino non si sia concluso definitivamente, ma ci può già dare un primo, invece cambiando discorso e tema, un primo riassunto, diciamo così, e punto sul dibattito che lei ha avviato? Ragioniamo sul Sole 24 Ore di euro, no euro, in maniera economica, non lasciando il tema solo alla politica e quindi a chi usa l'arma dell'euro per intercettare malcontento. Ma guardi, la prima parte del dibattito copriva la domanda della bontà dell'euro per l'Italia in lungo periodo, cioè prescindeva dalle difficoltà che sono enormi di uscire dall'euro, ma guardava e diceva: se noi oggi potessimo scegliere cos'è meglio nel lungo periodo, che cosa è meglio per l'Italia? E la risposta, la stragrande maggioranza degli interventi è stata a favore di dire è meglio l'euro. Però paradossalmente la motivazione è più una motivazione politica che economica, nel senso che non c'è una spiegazione di l'euro è meglio perché c'è più trade, più scambio, o perché i tassi di interesse sono più bassi. La spiegazione è perché noi italiani abbiamo bisogno di un busto, fondamentalmente. Io chiamo la versione ortopedica dell'Europa e dell'euro. Abbiamo bisogno di un busto perché non siamo in grado di governarci da soli, e questo busto è rappresentato dalle regole che ci impone l'Europa per l'utilizzo e la gestione della moneta. Questo non viene solo dagli stranieri, ma viene anche da molti italiani che riconoscono questa necessità del busto ortopedico. A me è una versione che mi preoccupa come posizione, perché è la versione che è stata utilizzata in passato per l'Argentina. Facciamo la parità dollaro-pesos perché in questo modo l'Argentina si comporterà in maniera virtuosa quando non si è comportata in maniera virtuosa prima, e poi abbiamo visto come è andata a finire. Quindi è una cercare di forzare dei cambiamenti delle istituzioni non dal basso ma dall'alto, secondo me è pericoloso. Staremo a vedere poi gli altri interventi e torneremo a fare un bilancio anche con lei, d'accordissimo sulla posizione invece sulle banche. Cioè a questo punto l'iniziativa deve essere politica, non possiamo continuare a tenere in stallo tutto il sistema in aree così importanti, lo dico chi mi sta scrivendo. Andiamo avanti, io personalmente andiamo avanti e facciamoci riprendere da Bruxelles e vedremo cosa ci dirà, perché abbiamo aiutato con i precedenti pre-bail-in, ma sempre precedenti sono di altri paesi europei. Grazie anche a Luigi Zingales in collegamento con noi da Chicago. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.